Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti. Il programma prevede di parlare di sogni metropolitani e di doppio monumento, doppia morale, nonché della rivincita di Fred Buscaglione.